diritto che qui si rivendica è quello all'assistenza personale autogestita, cioè le persone con disabilità grave non riescono a svolgere da sole i compiti essenziali della vita quotidiana, alzarsi dal letto, mangiare, lavarsi, uscire di casa, e per questo si servono dell'aiuto di altre persone. Nel sistema di welfare attuale purtroppo non è garantita l'assistenza personale, cioè la possibilità di assumere delle persone che svolgono questo compito, e chi ha questo tipo di difficoltà non può che appoggiarsi alla famiglia, agli amici, chiedere favori, essere così limitato nella sua quotidianità a dei livelli che per nessun normo dotato sarebbero accettabili, nel senso, ad esempio, non uscire di casa all'ora che si vuole, non alzarsi dal letto quando c'è bisogno di farlo, non mangiare quando si vuole, ma dover chiedere aiuto, dover dipendere da altri, dai loro tempi, dalle loro necessità, e non decidere liberamente della propria quotidianità. Noi quindi chiediamo che questo invece diventi un diritto garantito a tutti, non vincolato da esigenze di bilancio, perché ci sembra un'esigenza assolutamente di base, al pari della salute, dell'istruzione, un diritto proprio essenziale. Le rivendicazioni per i diritti dei disabili avevano già raggiunto il governo Gentiloni. Cosa ci si aspetta da questo nuovo governo che ha perfino istituito un ministero ad hoc? Lo vedremo, siamo ancora all'inizio per valutare, l'istituzione del Ministero è un segnale, bisogna poi vedere se corrisponderà ad un cambiamento nella sostanza. Purtroppo per il momento le dichiarazioni che abbiamo sentito dal Ministro Fontana sono ancora nell'ottica di un dare degli aiuti, mentre quello che noi chiediamo sono dei diritti, qualcosa di certo, non un piccolo aumento, un'elemosina, 100 euro in più. Qui dobbiamo stabilire un principio in base a cui, se tu hai bisogno di assistenza, se ti capita qualcosa nella vita per cui non sei più indipendente, hai un diritto garantito, assoluto, ad avere tutta l'assistenza di cui hai bisogno, così come hai diritto al fatto che se ti rompi una gamba puoi andare in ospedale e vieni operato. Ecco, per noi questo tipo di diritto è essenziale allo stesso modo. Quindi la vostra rivendicazione è una rivendicazione politica di un diritto al pari delle unioni civili, ad esempio? Beh sì, non so quanto ci convenga il paragone dato il tipo di ministro che è stato scelto, però sì, è proprio un diritto che riguarda la libertà delle persone. Dalla scorsa manifestazione di novembre ad oggi si sono riscontrati alcuni risultati o la situazione è rimasta sostanzialmente la stessa? No, purtroppo no, su questo la situazione è assolutamente invariata.